Fresh Bit di Giulia Crivelli. Closing in. Closing in on cancer. New therapies, new priorities. Il cancro è circondato, nuove terapie, nuove priorità. L'Economist, forse il più autorevole settimanale di attualità economica e non solo in inglese al mondo, è uscito settimana scorsa con questa copertina. L'illustrazione scelta era un bersaglio come quello dei poligoni, con i buchi dei colpi andati a segno tutto intorno al pallino centrale, rimasto illeso. La parola che ci interessa è closing in, un phrasal verb regolare, to close in, closed in, closed in. Significa circondare ma anche finire, nel senso di chiudere un cerchio, un ciclo. The lions closed in on their prey. I leoni circondarono la loro preda. When the night closes in, it gets darker. Quando cala la notte, arriva l'oscurità. They huddled around the fire as the night closed in. Si avvicinarono al fuoco nel momento in cui si fece notte. To close down, invece, significa chiudere. All the steelworks around here were closed down in the 80s. Tutte le fabbriche siderurgiche dei dintorni chiusero negli anni 80. Molte le espressioni nate da close. These measures are aimed at closing the gap between rich and poor. Questi provvedimenti sono pensati per ridurre le differenze, le distanze, gap, tra ricchi e poveri. The gap between the two soccer teams is closing all the time. La differenza tra le due squadre di calcio continua a diminuire. It's not unusual for the police to close ranks when one of their officers is being investigated. Non è raro che i poliziotti facciano quadrato quando uno di loro è sotto inchiesta. Close è anche aggettivo, ma non significa chiuso, bensì vicino. Our new house is close to the school. La nostra nuova casa è vicina alla scuola. Come ogni aggettivo, può avere comparativo e superlativo. You're closer to your sister than you think. Sei più vicino, in sintonia con tua sorella, di quanto tu non creda. This is the closest we can get to solving the problem. Questo è il massimo che possiamo fare per risolvere il problema. Letteralmente, è il punto più vicino alla soluzione del problema che possiamo raggiungere. We are close to signing an agreement. Siamo vicini alla firma di un accordo. Per estensione si può dire anche take a close look at the picture and tell me what you see. Guarda con attenzione, da vicino, la fotografia e dimmi cosa vedi.